Intanto la nostra scrittrice Margherita Giacobino, sempre ospite graditissima qui alla Casa Internazionale e per noi del CLR, del Coordinamento Lesbiche Romane, sta quasi diventando una consuetudine, devo dire, aspettiamo con ansia i suoi libri per poterli presentare con estrema gioia e con estremo piacere. E quindi daremo inizio anche stasera a presentare questo libro, questa ultima fatica di Margherita, consapevoli di una cosa. Allora, intanto esordiremo dicendo questo: quando Margherita ci ha chiamato e ha detto sta uscendo il nostro il nuovo romanzo, noi nel romanzo, perché i suoi ultimi lavori sono stati lavori per noi impegnativi, anche per lei evidentemente, ma erano Il ritratto di famiglia con bambina grassa è stato un libro epico, direi, e che noi abbiamo presentato sempre qua in questa sala peraltro, ed è stato molto bello, molto interessante. Lei ci ha parlato dell'epica della sua famiglia, delle sue radici, ed è giusto che le donne incomincino a percorrere la propria storia passata, presente e poi eventualmente futura, a partire, no, dal principio femminile, mettiamola così. E poi Il prezzo del sogno, che era invece su Patricia Highsmith, è stata una biografia romanzata, così come lei stessa ci ha detto, anche quello un bel libro impegnativo, dove Margherita ha fatto un grandissimo lavoro di ricerca e poi ha messo insieme questi pezzi. Quindi presentare questi due ultimi lavori di Margherita è stato per noi del CLR, diciamo, impegnativo, ci potete credere, no? Perché abbiamo dovuto poi confrontarci con qualcosa che non era proprio nostro. Però eravamo abituate in precedenza a leggere i romanzi di Margherita e quindi a goderceli, perché comici, ironici, e con questa sua capacità di andarsi a vedere, a cercare le tipologie femminili e a rappresentarle così bene che tu te le figuri, te le vedi davanti proprio, no? E poi il bello della lettura è quella che tu veramente puoi mettere tutti i fiocchetti che ti pare, perché tanto te li puoi immaginare come credi più opportuno. E quindi, non te contente, vai, un altro romanzo. Beh, dobbiamo dirvi che L'età ridicola, che esce per Mondadori, è uscito per Mondadori, quindi è la terza opera di Margherita che esce per Mondadori, insomma, diciamo, Margherita ha sfondato ed è una grande urrata da parte nostra. Non è un romanzo, sì, ma non è un libro di facile lettura, almeno secondo il nostro giudizio. Cioè, essere un libro di facile lettura, non essere un libro di facile lettura non significa che non è scorrevole, si legge benissimo. La scrittura di Margherita è una scrittura che, almeno dal mio punto di vista, è estremamente piacevole e poi è molto, per quello che mi riguarda, anche figurativa, quello che vi dicevo prima, cioè io immagino i personaggi, anzi le personagge nella fattispecie che lei tratteggia, e me le vedo vestite addirittura, no? L'immagine questa qua, magari la vecchia del libro non me la so immaginata proprio vestita di rosso, però insomma ci siamo andate quasi vicino. Detto questo, quindi questo libro è un libro che quando l'abbiamo letto ci siamo poi interrogate e abbiamo parlato tra di noi dicendoci: ci ha fregato stavolta Margherita, perché ha messo un'infinità di cose dentro, di riflessioni da fare e di pensieri da proseguire, no? Acchiappo un pensiero, lo faccio mio, lavora dentro di me e va avanti. Questo romanzo parla della vecchiaia anche e quindi alcune di noi, magari non tanto a Rosina, che qui è la giovane del gruppo, anche Stefania, che in questo momento non c'è, però è la giovane del gruppo, però le altre, alcune riflessioni le hanno incominciate a fare. Però il romanzo parla di questa vecchia, che non è una vecchia, si fa per dire, non è una vecchia di quelle che stanno là sedute e che aspettano. E anche se lei aspetta, come tutti i soggetti, come tutti gli esseri viventi, però ha un modo di aspettare che è completamente diverso e che è, ora, perdonate il modo di parafrasare, è un po' inaspettato. Possiamo dire così, no? Margherita? È un modo di aspettare inaspettato, perché non ti aspetti questo dipanarsi. E questa vecchia, che prima parlavamo con Margherita, non ha un nome, e per tutto il libro si chiamerà la vecchia, ha una giovane collaboratrice, che è una donna dell'est, non si sa da dove viene, ma è una donna che viene dall'est, che si chiama, invece ha un nome, si chiama Gabriela, che le fa in qualche maniera da contraltare. E quindi intanto apriamo il primo, diciamo, adesso si dice il primo file, no, la prima finestra, quindi un rapporto generazionale tra donne, dove due generazioni diverse dialogano in qualche maniera e sono in un rapporto che apparentemente potrebbe sembrare subordinato, ma che in realtà non lo è, ed è estremamente interconnesso. Le due persone, queste due donne, hanno una grossa relazione e all'interno di questa relazione poi si muovono in maniera molto particolare, molto interessante. E con la vecchia che è estremamente ironica e che prende in giro la giovane, e la giovane che sta sulle sue e che deve cercare di capire sta vecchia, insomma, che insomma è ben navigata. Allora, prima di andare a un pezzettino di lettura, e poi ci sono tutta un'altra serie di figure e le introdurremo piano piano, perché il libro parla di tante figure femminili, di tante donne che stanno in relazione tra loro qua e che sono un pezzo di società che si va a dipanare. Però farei una prima domanda a Margherita. È una domanda, noi ci siamo lette un po' di interviste che Margherita ha rilasciato per la presentazione di questo libro, è un po' una domanda che hanno fatto più le hanno già fatto, poi noi le faremo anche altre domande, però è una domanda di rito, visto che parla di questo argomentone. Perché Margherita ha scelto di parlare di questo tipo di argomento? Cioè, cosa intendi con questo? Cioè, lo sapevo. Della vecchia? Della vecchia, e quindi di questa fascia d'età. Vabbè, allora, cioè la risposta è, non può essere che molteplice. Però faccio un passo indietro, okay, all'apertura che tu hai fatto, no? Perché io per anni mi sono sentita un po' nella posizione è spento. Oh, aspetta un po'. E adesso? E la vecchiaia di Lucilla non sa bene come funzionano le cose tecnologiche. È a posto, no? Vediamo. No, è aperto. Sì, è aperto. Non funziona, usa questo. Non funziona, usa questo. Ah, no, non funziona. No, dicevo, per anni mi sono trovata un po' nella situazione in cui mi sembrava, cioè, e mi è stato chiesto anche letteralmente, non so, che mi dicessero, che il pubblico mi chiedesse facce ride, con quel proprio, non perché siamo a Roma, me l'hanno detto proprio così. E allora io mi sono detta, mi chiederanno anche facce piagne? No, perché poi su questo ho fatto anche una riflessione, perché la letteratura che fa piagne è quella che vende sempre di più. E l'ho pensato io, questo l'ho riscontrato, però diciamo che non era questo effettivamente il movente principale della mia operazione letteraria, però se su funziona non dico di no. E allora, quindi tu hai detto che è una cosa un po' impegnativa, no? Perché ho voluto parlare di una vecchia? Innanzitutto, why not? Cioè, siamo sempre più, io mi metto in quella categoria degli over, ormai siamo, io sono ormai anni che mi fanno lo sconto al cinema, tra un po' mi chiederanno la maggiorazione, perché se vale la legge della maggioranza, chiederanno la maggiorazione a quelli, siamo sempre di più. Secondariamente, io ho sempre amato le persone anziane, i vecchi, perché ci sono cresciute in mezzo. Quindi, vabbè, questo l'ho anche già raccontato, insomma, per me è stato... poi mi sono sempre anche sentita più vecchia della mia età, E poi c'era anche un fatto che mi sembra che dei vecchi si parli in una maniera terribilmente falsa, cioè si parla ormai, ci sono, una volta non c'erano tanto protagonisti vecchi nella narrativa, nel cinema, adesso ce ne sono parecchi, però sono sempre super ben tenuti e il loro massimo pregio, il senso di tutta l'operazione, consiste nell'essere giovani, cioè... Il vecchio, quando è che la vecchia, quando è che è accettata, che funziona, che è ok, quando è giovane. Io non ho accettato questa logica e ho voluto rivendicare che la vecchia è vecchia. E così come tutte le rivoluzioni sono iniziate rivendicando il nome, no? Nero è bello, donna è bello, donna è il potere, cioè rivendicando il nome che... i froci si sono chiamati froci perché dire è un insulto, boh. Io me ne approprio. E quindi io nel mio piccolo ho fatto questa piccola, ho iniziato la mia rivoluzione. La mia vecchia si chiama così, l'ho chiamata così e lei si identifica fortemente così perché ritiene che quello che è il suo stato non deve essere negato o diventare una specie di gioventù mal riuscita. Certo. Approfitta quindi dei vantaggi della sua età. E il vantaggio della sua età principale per me era quello di essere libera ormai da una serie di pesi e convenzioni. Penso che il cammino della nostra vita sia anche forse questo cercare di capire sempre meglio chi siamo e cosa veramente ci interessa e cosa no, e anche liberarci dalle cose di cui non ce ne frega niente, no? Dalle convenzioni. Ai vecchi è più facile. Non a caso poi ho scelto quella frase lì da mettere dietro, no? Quella che dice, pensa un po' se mi dessero 30 anni... È un po' rufiana la frase, ma l'ho scritta davvero, l'ho scritta prima, non c'entrava con la copertina, cioè non è stata fatta apposta. Senza un po' se mi dessero, che ridere, no? Perché io non dovrei più voler sparare a nessuno, non dovrei più voler, come dire, compiere qualcosa, un gesto. Pensa che ridere se mi dessero 30 anni. Quindi diciamo che lei si prende in mano questa licenza che non è la licenza di uccidere, ma la licenza di essere quello che è. Allora, dopo aver tratteggiato in qualche maniera questo personaggio, adesso sentiamo come la descrive in un paio di passaggi. Legge The Voice, Rosina. Mesi fa la vecchia, parlando con Gabriela, le ha detto che un tempo aveva un suo ristorante ed era una chef rinomata. Gabriela le ha creduto, due o tre volte ha visto la signora cucinare piccoli piatti raffinati nelle occasioni in cui la sua amica Malvina era invitata a cena. Poi ha capito che scherzava, non per malignità, ma così perché le piace inventare. Il guaio è che resta sempre seria e non si capisce quando scherza e quando no. In altri momenti la signora, è così che Gabriela la chiama, non si sognerebbe di chiamarla la vecchia neppure nei suoi pensieri quando nessuno ascolta, ha dichiarato di essere stata capitana d'industria, cantante lirica, insegnante di ballo, guardia forestale, ragazza di vita e altre cose ancora. Ragazza di vita. Nessun mestiere normale, professoressa, impiegata, infermiera, commessa in un negozio. Ha letto da qualche parte. Aspetta. Qui come ragiona lei, la vecchia, appunto, rispetto alla morte, no? E quindi andiamo a introdurre questo argomento. Ha letto da qualche parte un bestseller tascabile, la storia di un saggio orientale che è morto quando l'ha deciso lui. Si è messo lì sdraiato, comodo nel suo letto, ha rallentato il respiro fino a farlo smettere del tutto e paf, è morto. Sublimi stronzate, non si può morire a comando, ci ha provato. Rallentare il respiro, fare il vuoto mentale, questo è il più difficile, la mente aborre il vuoto, se non pensa cazzeggia o peggio ancora si lascia prendere dai lupi mannari, dall'horror quotidiano, si fa cassa di risonanza dei mali del mondo, sentirsi galleggiare nel nulla, respirare ancora più lentamente, piano, pianissimo, un lieve senso di obnubilamento, probabilmente dovuto alla minore ossigenazione del cervello. Ricordi di Spinelli giovanili, che non le sono mai piaciuti granché, nessuna affinità con le droghe. Inspirare meno, sempre meno, poi chissà come si è distratta, ha ripreso a respirare normalmente, niente, non è morta. La morte non viene quando la chiami, perlomeno non qui in Occidente, chiamata da una laica incorreggibile, la morte fa da gnorri. E quindi qui si prende in giro anche un po' la morte, no? Nel senso che sì, alle volte... Allora, riflettere sulla morte o riflettere sulla vecchiaia, eccetera, è impegnativo, però lo si può fare anche con una certa leggerezza. Ecco, questa è una delle grandi doti che noi del CLR riconosciamo a Margherita e che ci fa sorridere, anche se ci fa riflettere, su tante questioni. E affrontare argomentoni sulle donne in un modo leggero credo che sia la cosa migliore, no? Saper fare ironia su di noi, eccetera. L'altra domanda di rito che si fa a Margherita e che le rifaccio: ma Margherita, ma perché parli sempre delle donne? E di che devo parlare? Scusa, non potrei scrivere sui gatti? Ecco. Potrei parlare di animali, sì, di cucina, però lo fanno in tanto. Cioè, le donne sono, compendiano di più. Perché non dovrei parlare delle donne? Cioè, esiste un altro argomento? Per noi no. Ok, però questa è una specifica che secondo me va fatta tutte le volte. Perché non parlare delle donne? Perché delle donne o ne parlano gli uomini dicendo quello che noi siamo, ma poi quando andiamo a vedere non ci ritroviamo, oppure semmai ne parliamo noi e ne possiamo parlare in tanti modi, parlando di noi stesse e anche di come pensiamo le altre donne. Ma torniamo al libro. Allora, abbiamo visto la vecchia e questo è già qualcosa. Adesso andiamo a vedere Gabriela, quindi abbiamo le due donne che interfacciano maggiormente, la protagonista è la vecchia, la coprotagonista è Gabriela. Allora, Gabriela, abbiamo detto, è una giovane che viene dall'est, una donna giovane, e però è una donna diversa, diciamo, dalle giovani, almeno secondo il pensiero della vecchia. E è molto ordinata, è molto pulita, è molto precisa, è una rispetta i limiti, però ha una paura profonda e ha una paura che è una paura di vivere, e queste cose la vecchia le ha capite e in qualche maniera la pungola, in qualche maniera si fida, in qualche maniera non si fida, insomma la studia, ma anche Gabriella studia la vecchia, insomma si studiano. Allora andiamo a vedere la domanda per prima di andare a leggere un pezzo. Perché Gabriella, ti sei ispirata a qualcuno per Gabriella, per esempio? Sì, naturalmente sì, Gabriella è uno studio davvero di... Gabriella è stato il personaggio più difficile perché, rappresenta anche il mistero dell'altra, ecco, il mistero di una persona che, con cui condividi spazi, momenti, non so, non sarà capitato solo a me, io ho avuto spesso rapporti di lavoro con donne migranti, donne che vengono dall'est, di cui ho apprezzato le virtù lavorative. E poi però mi rendo conto che c'è nella differenza, nel nostro divenire, nei nostri diversi linguaggi, lì si annida un mistero, no? Cioè che la comprensione si ferma a un certo punto, che non è che poi magari noi capiamo un'altra, anche se è italiana, però insomma abbiamo almeno l'illusione di arrivare più avanti, più oltre. E mi interessava questo mistero, mi interessava raccontare proprio questo aspetto qua. Sì, comunque Gabriella è uno studio dal vivo ed è stato faticoso perché parlare di qualcosa che tu conosci in modo relativo è più difficile parlare di qualcosa che conosci o pensi di conoscere a fondo. Allora andiamo a vedere anche qui come Margherita descrive Gabriella e vai. Non è ancora nato l'uomo che piacerà a Gabriela. Una donna forse? No. Quella è già nata e morta da un pezzo. Gabriela è venuta al mondo gemella e ha perso l'altra metà di sé quando aveva soltanto 6 anni. Il come varia di volta in volta nelle sue parziali e fantasiose dichiarazioni. Un incidente d'auto in cui la sorellina è stata scagliata attraverso il parabrezza, il padre ubriaco l'ha colpita con una bottiglia, è morta di una febbre improvvisa e violenta. La madre, più un'assenza che una presenza, se n'è andata subito dopo, trasferendosi in un'altra di quelle regioni devastate dall'alcol e dal socialismo reale, dove in seguito è morta per cause ignote, ma quasi sicuramente non naturali. A parte che non c'è niente di più naturale della morte violenta, pensa la vecchia. La bambina superstite è rimasta affidata alle cure della nonna materna e in qualche modo protetta dall'ala o per la sua resilienza o per volere del caso. È sopravvissuta alla convivenza con un padre itilista in una casa facilmente infiammabile e priva di acqua corrente. La fortuna sotto forma di un tumore al cervello di rapidissimo decorso l'ha lasciata orfana nell'adolescenza, prima che al padre venissero altre idee. Da 10 anni è emigrata in Italia insieme alla sorellastra, figlia di primo letto del padre. Allora, intanto questa è Gabriela. Quindi Gabriela e la vecchia condividono questo spazio, condividono la casa della vecchia e c'è un costante dialogo tra di loro con interrogativi che si pongono l'una nei confronti dell'altra. E, in altre parole, Margherita qui affronta anche la questione degli incontri di culture diverse, cioè donne nate in ambienti diversi e in ambienti culturalmente anche diversi. Delle donne dell'est si dice di tutto di più, no? Che sono grandi lavoratrici, che sono grandi sfruttatrici, che vengono qua a rubare gli uomini, no? Vengono per derubare noi e via discorrendo. E però sono in realtà, appunto, realtà così diverse che vengono per necessità, come noi siamo state migranti negli anni. Ma ci interessa sottolineare lo scambio culturale che c'è tra le due, con una profonda, diciamo, compenetrazione, conoscenza che va al di là della cultura di appartenenza e della cultura di provenienza e che ha a che vedere con il femminile profondamente. E adesso legge lei un altro pezzettino e poi chiediamo specifiche a Margherita. Non le hai mai chiesto se è stata sposata, se ha avuto figli? In principio perché non osava. La vecchia è piuttosto formidabile nelle risposte come nei silenzi. Ma poi perché ha riflettuto che quelle sono precisamente le domande che vengono fatte a lei e le danno fastidio. Alla tua età le dicono, io ero sposata, avevo 2 bambini, neanche fidanzata, che cosa aspetti? E già, cosa aspetta? Perché non le piace andare a ballare come le più giovani, ma tanto più sveglie nipoti e non passa ore a truccarsi e specchiarsi e ascoltare musica e a parlare di ragazzi o di uomini? Quindi c'è un tratto culturale che riguarda le donne in tutto il mondo e che non c'è sta niente da fa. Quindi, allora, le donne si possono incontrare forse molto di più, proprio perché alcuni elementi contraddistinguono, no? La nostra, diciamo, cultura o quello che ci vogliono contrabbandare come cultura, la dominazione, comunque ci sono delle cose che sono specifiche e quindi... Perché per te è vero questo discorso e questo incontro culturale o scontro culturale che in certi momenti c'è ha senso rispetto all'essere donne, quindi il trovare comunque dei punti di contatto sempre e comunque? Beh, forse se facciamo così è meglio, facciamo prima. Grazie. Scusate, sposto anche questo. No, io non penso che le donne per forza siano incontrate, come aveva detto Elinor Rigby in passato. Non ho paura della morte perché ho conosciuto una donna, anche lei ne ho conosciute di peggio, quindi ci sono donne che forse con cui io non mi capirò mai, però le mie donne in questo momento, la vecchia Gabriela, su certe cose si capiscono. Ma un po' si capiscono perché c'è qualcosa di essenziale tra loro. Intanto c'è una condivisione di uno spazio, e c'è una, tutte e due sono allo stesso tempo, hanno paura ma sono anche molto agguerrite e hanno una loro onestà di fondo, si capiscono per quello, no? E quindi mettono in comune delle cose. E quindi Gabriela è un po' come se fosse un po' una cappuccetto rosso persa nella foresta dei parenti di serpenti che stanno lì a cercare. E lì la sua problematica è quella, la vecchia che è più scafata, più, insomma, più esperta, capisce, cerca di... Ecco, una cosa su cui lei cerca molto, la stimola molto, è cercare di liberarla da questi legami tremendi, no? Che la... E loro si incontrano su quello, e forse anche un tratto della vecchiaia è quello di sfrondare, no, dalla linea essenziale, vedere dell'altra gli tratti più essenziali, e quello le permette di comunicare. Allora, intanto quindi cominciamo a ragionare sulla complessità di questi personaggi. Ne incontriamo altri. Allora, uno dei personaggi che ci ispira sicuramente simpatia e che ci fa una grande tenerezza è Malvina. Malvina è l'amica che le è rimasta, quel che resta, no? L'amica che è rimasta alla vecchia. E perché hanno condiviso tante cose nella vita. E però il problema di Malvina, anche Malvina è una persona, una donna che si chiama Ana, e poi vedremo anche lei, che è una quasi badante, mentre per la vecchia non è proprio, è una collaboratrice ancora, per Malvina è quasi una badante, e Malvina ha dei problemi di memoria. La sua memoria sta incominciando ad affievolirsi sempre di più, ricorda alcune cose, ne scorda delle altre, interpreta, vede persone che non ci sono e via discorrendo. E questa cosa fa addolorare, fa arrabbiare la vecchia, che appunto passa tra, alle volte si arrabbia, alle volte si addolora, perché è la sua storia, è la sua mente che insieme a Malvina se ne va. No? E quindi è la sua identità da qualche parte che va a sparire, e quindi andiamo a vedere Malvina che cosa combina. Allora, vai al 29, scusate perché poi pezzi, vai. Aspetta, scusate, è che io ho perduto le mie pecettine, purtroppo. Eccola qua, Malvina. Malvina la dolce, rintornata Malvina, socchiude gli occhi al sole d'inverno e rivolge al mondo un vago sorriso, sempre più assorta in qualcosa di remoto, forse il grande nulla che si annuncia alla sua porta. In quei momenti di assenza sembrano cieca, gli occhi foderati da un opaco sacco amniotico di luce, rivolti all'interno. All'avvicinarsi dell'amica però si risveglia, il viso animato da lizzi di emozione, sollievo, gioia, perfino malizia. Ha pochissime rughe Malvina. Di tanto in tanto la vecchia pare di intravedere la ragazza che è stata. La vede affiorare da sotto la pelle, appesantita ed infiacchita, come un'attrice che sia stata invecchiata anzitempo da un truccatore esperto, e aspetti pazientemente di essere liberata dagli strati dell'età per tornare a se stessa. Poi fa. Cammino sotto braccio alla mia amica Malvina, che conosco da quando era una giovane donna slanciata che ballava agitando la testa riccioluta sulla pista di un locale chiamato Fire, e tutti la guardavano, uomini e donne. Agli uomini piaceva perché sembrava un ragazzino, alle donne perché non lo era. E qui ci vuole proprio un applauso, perché è un pezzo meraviglioso, capito? E poi l'ultimo... Vabbè, era difficile, ammetto che mi sono chiesta, ma chi sarà l'amica della vecchia? Cioè una, per esempio, chi potrebbe essere una mia amica intima con cui condivido cose? È probabilmente una donna che ama le donne, anche lei, no? Cioè non è che... Cioè in qualche modo deve emergere una comunità in questa situazione, e io l'ho fatta emergere così. E infatti la comunità c'è, perché poi questa cosa viene fuori. Però Malvina è anche una donna di classe, e questa cosa viene fuori da un'altra parte, nel senso che succedono una serie di cose, e purtroppo per una serie di accadimenti, ahimè, Malvina, a causa di questo nipote, possiamo dire un po' di merda, finisce in l'infame Osvaldo, sì, a causa dell'infame Osvaldo finisce in una struttura per anziani, e quindi lì la va a trovare sempre la vecchia e assiste a questo episodio. Mentre l'amica mangia, la vecchia si raccoglie nella sola specie di preghiera che conosce e pratica, l'invocazione all'amore in tutte le sue mirabili e terribili manifestazioni. Se si potesse tradurla in parole correnti, in questo caso la preghiera suonerebbe più o meno così: sia lodata Malvina, la grazia celestiale dei tuoi congiuntivi. Poco dopo, rivolgendosi con aristocratica dignità all'inserviente che la manipola con brusca efficienza, Malvina annuncia: Dovrei defecare, dove il condizionale non è espressione dubitativa o ipotetica, subordinata al verificarsi di altri eventi. Dovrei defecare se tu avessi la bontà di portarmi in bagno, bensì fredda forma di cortesia, in realtà un ordine travestito da desiderio. La vecchia traduce la parola defecare all'interdetta inserviente, che ne resta debitamente impressionata e forse, ma magari è solo illusione, spinge la sedia a rotelle verso il bagno con passi più veloci e schiena più deferente. La vecchia le guarda allontanarsi, la sua amica rimbambita, una regina in esilio. Ecco, e quindi qui abbiamo visto anche Malvina. E quindi già ci stai dicendo questa cosa, ma noi abbiamo sempre parlato della comunità, no? E di quello che della famiglia allargata. Le nostre famiglie non sono le famiglie fatte di parentela di sangue. Le nostre famiglie sono fatte di storie, le storie che condividiamo nel tempo e che ovviamente ci avvicinano, perché c'è il sentimento, c'è il sentire e c'è la condivisione e la scelta, che è l'altro elemento fondamentale. E quindi sulla capacità di scegliersi delle donne, che cosa vogliamo dire rispetto a quello che tu hai scritto, per esempio? La capacità di scegliersi? Sì. Bassa? O alta? Bassissima. Per quello che vedo attorno a me è bassissima, però... Nel senso che io non faccio che meravigliarmi di come certe persone abbiano scelto certe altre persone, però insomma, capita. Ma chi l'hai presa così, scusa? No, ma me l'hai chiesto. Che devo dire in relazione a questo libro? No, questa è un'amicizia che c'è, un'amicizia vera, reale, nel senso che la vecchia è tirannica, e Malvina è anche un po', cioè la irrita un po', no? Quindi non è un'amicizia così sciropposa in cui, cioè per esempio racconto di quando vanno al ristorante e la vecchia si impazientisce perché quella vuole fare la gourmet, eccetera, dice che palle, non so, ci sono tutti questi, però mi sembrava più reale, cioè una vita certo. Reale. Poi tu magari ami profondamente questa persona, che fino a quando sei amica tua la strapazzi, poi improvvisamente... E si allontana, e in questo caso viene portata nella casa della vita oltre la vita, e quindi qui subentra questo dolore molto forte, no? Questo, e quindi vabbè, era la storia di un'amicizia. Poi vabbè, Malvina mi è servita per raccontare anche lì cose che purtroppo ho vissuto personalmente, perché ho seguito mia madre nell'ultima fase della sua vita, e quindi anche tutti questi piccoli episodietti della casa, la casa della vita oltre la vita, con i vari personaggi che fanno delle cose che sono anche comiche a vederle, no? Se non fossero anche tragiche, ma sono tutte certo. E due le cose insieme. E anche questa cosa che avete letto, no? Proprio queste cose del linguaggio, no? Nel momento, io l'ho vissuta di come c'è una perdita totale, poi che appare totale, poi improvvisamente c'è un improvviso riaccendersi e una frase lucida, compiuta, con i congiuntivi a posto, tutto, ti commuove in maniera, ti folgora, e poi dopo però cala di nuovo la tenebra. E sono esperienze, insomma. Certo, che... certo. Ti toccano. Quindi hai attinto da qualcosa che conosci, anche per tratteggiare questo personaggio, no? Eh sì. E va bene. E proseguiamo. Allora, prima di parlare di altre due donne, c'è un'altra presenza fondamentale nella vita della vecchia che scandisce, diciamo, i suoi rituali anche, no? Che è un gatto, il gatto veleno. Il gatto veleno è profondamente... È importantissimo per la vecchia, perché è un altro elemento della sua memoria ed è un elemento che ha condiviso insieme alla sua compagna, la compagna che non c'è più, e quindi è veramente un grande personaggio. Non è un personaggio femminile, ma è un grande personaggio. E quindi andiamo a cercare, prima di leggere qualcosa sul veleno, cioè da chi ti ha ispirato? Questo veleno è ispirato a un personaggio, vabbè, scusate, non è che voglio, è ispirato a un personaggio vero, il gatto Freddy, il gatto di mia mamma, che purtroppo anche lui è andato a dormire sui morbidi cuscini del cielo quasi un anno fa, è morto vecchio, ha avuto una bella vita, per carità. Il gatto Freddy che mia mamma aveva trovato vicino ai bidoni della spalla, ride perché mi ha raccontato, l'ha chiamato Freddy lo chiamerò Freddy, e ho detto perché Freddy? Perché il gatto che viene dal freddo, ma questa associazione perché l'aveva trovato in pieno inverno che razzolava nei bidoni della spazzatura e l'ha catturato con una gabbietta a trappola perché non si faceva prendere, l'ha tirato fuori, lui terrorizzato, e quando è stato stretto al petto di mia madre, dopo 10 minuti erano diventati una sola entità. E io ho un po' ho fuso due episodi, uno di un episodio in cui io e Claudia abbiamo effettivamente salvato un gatto avvelenato, che però poi non ce lo siamo portati a casa perché era un gatto selvatico, non si poteva, l'abbiamo liberato e basta. E invece con la figura del gatto Freddy, che è stato un grandissimo gatto, si è detto qui proprio come epitafio glorioso, era un gatto, un grandissimo gatto, un gatto human friendly, tutto ciò che era umano gli piaceva, tutti gli esseri umani gli piacevano, e soprattutto ovviamente mia madre, che veniva prima di ogni altra cosa. Quando lei se n'è andata, lui si è guardato un po' attorno, ha sofferto per un po', e poi ha detto, vabbè, ci sei tu, non sei, cioè mi devo accontentare, e ha operato il transfer, molto saggio. I gatti lo sono, in genere. Allora, sentiamo che cosa dice di veleno. Perché si chiama veleno? Dice Gabriella. La vecchia, che l'ha osservata con attenzione da sopra gli occhiali abbassati, riflette per un lungo minuto. Proprio quando la ragazza sta per scusarsi dell'indiscrezione, alzarsi ed andare in cucina a controllare la cottura delle patate, le risponde. Perché una volta ha ingoiato un boccone avvelenato. Oh, dice Gabriella con un piccolo risucchio delle labbra, sgranando gli occhi e portandosi una mano alla bocca. Alla vecchia non sfugge che queste deliziose e insulse manifestazioni di sensibilità fanciullesca sono riservate ai piccoli eventi conversazionali che non la toccano da vicino, mentre quando parla degli assassini domestici del suo passato, veri o immaginari che siano, Gabriella è fredda e cinica, come Marlene Dietrich nei panni di Shanghai Lili. Chi è stato? Non ne ho idea. Qualcuno che odia i gatti. C'è sempre qualcuno che odia i gatti o qualche altra categoria di persone o bestie, di cui incidentalmente chiunque di noi potrebbe fare parte. Ma i gatti non se ne accorgono se il cibo è avvelenato? Forse, a volte, si è nelle condizioni di decidere se morire di fame o di veleno. E quindi questo è veleno. E veleno attraversa buona parte del romanzo, quasi tutto, dobbiamo dire, e fa compagnia alla vecchia di giorno, ma soprattutto di notte, nelle notti lunghe, nelle notti insonni, dove il lieve russare di veleno, no, scandisce con fare asmatico, come dice appunto, scandisce il tempo, ed è il grande legame che questo splendido animale ha con la vecchia, ma soprattutto è il ricordo anche di Nora e di quanto sia stato importante tra loro due. E quindi arriviamo a Nora. Nora, che non c'è più, che è andata via ormai da 10 anni, è stato l'amore della vita della vecchia. La vecchia aveva due interessi importanti, poi di se stessa si definisce dispotica, appunto, come dice giustamente Margherita, ma la vecchia lo sa benissimo di avere un pessimo carattere e non fa niente per cambiarsi, perché non ha proprio nessuna voglia di cambiarsi, lei si piace così, si va bene così, meglio ancora. E Nora però purtroppo se n'è andata in un momento in cui, dirà la vecchia, quando è arrivata la grande signora, quando è arrivata la morte, io me l'ho addormentata, e quindi non ha potuto assistere al grande evento, e quindi a quest'altra donna che era venuta a prendere Nora. Ma chi è Nora? E adesso intanto chiediamo a Margherita perché hai inserito questa il personaggio di Nora così, cioè con il discorso dell'assenza e quindi della della mancanza, insomma, no? E quindi di quello che rimane, perché era è un aspetto, è quello tu lo dici nel libro, ma anche di questa assenza che è ridondante durante tutto il libro, no? Vabbè, faceva proprio parte della storia. Io volevo raccontare la storia di una donna che cioè che di questa perdita, no? Volevo raccontare di un amore finito. Gli amori come finiscono di solito? Finiscono perché ci si lascia, non ci si capisce più, non ci si piace più. Però volevo raccontare di un amore che è finito non perché non ci si piace più, ma perché è intervenuta la grande rivale. E cioè ridotto all'osso, voglio dire, perché a un certo punto da un certo punto della vita non è detto assolutamente che due persone che sono state insieme 50 anni poi se ne vadano insieme, no? Una può morire prima di un'altra, e io questo volevo dire, forse perché è una cosa di cui ho paura, sicuramente, forse perché è una cosa che ho immaginato, beh, insomma, comunque, e l'ho detto che l'ho anche scritto dopo che è morta mia mamma, quindi per me c'è stata questa cosa. Non ho mai pensato che mia madre sarebbe vissuta quanto me, però non ho mai neanche pensato che sarebbe morta prima. Non c'è la logica, non esiste una logica, certo, negli affetti. E quindi questa era veramente l'intenzione, esplorare questo aspetto qua. E Nora, cioè, il fatto è che lei continua a esserci, la vecchia è tenace nell'amore, quindi preferisce soffrire, sentire la mancanza, evocarla, e questa è la forma che prende l'amore quando l'altra persona se n'è andata. Sì. E lei ha fatto questa scelta, quindi in questo senso Nora è ancora presente, ecco, anche se io non ho voluto raccontarla proprio tanto, ho voluto raccontare, certo, mi interessava raccontare la fine, e ho raccontato infatti la fine. Se volete piangere, vi dico anche da che pagina a che pagina. ho raccontato questa fine. E quindi insomma, mi interessava di più quello, perché forse perché ero un po' stufa di questi romanzi d'amore che raccontano sempre come inizia un amore. E del resto, cioè, a un inizio corrisponde sempre anche una fine, quindi è bene saperlo. Allora, detto questo, c'è il pezzettino di lettura che abbiamo scelto, è la parte che invece racconta delle caratteristiche di Nora e di quanto di quelle caratteristiche che la vecchia amava della sua compagna. In realtà questo pezzo racconta racconta di Nora, ma racconta di veleno. E quindi in qualche misura attraverso veleno Nora viene tratteggiata. Non sono stata io a vederlo, o forse ho deciso di non vederlo, un movimento appena percepito con la coda dell'occhio e subito censurato, qualcosa che non va in questa giornata magnifica, qualcosa che puzza di dolore e di irrimediabilità, e ho girato la testa dall'altra parte. Il gatto si contorceva debolmente sul ciglio della strada, sopra uno strato di rifiuti accumulati dal vento, cartacce, fogli secche. Era un tardo pomeriggio di fine estate. Eravamo abbronzate, ricordo il fruscio della brezza di mare tra gli eucalipti. Era prima che tutto succedesse, nel felice prima. Per un istante ancora ho finto di non vedere, non sapere, le chiavi della macchina in mano. Ma Nora si era già accovacciata accanto alla piccola sagoma, sudicia e convulsa. E io ho pensato, oh no! Perché la vita ci mette di fronte a questo piccolo dramma, perché ci obbliga a fare qualcosa o niente? Anche non fare niente, non voler vedere, è una decisione. Perché oggi? Perché proprio noi? Nora è sempre stata più forte di me, più decisa. Aveva già raccolto da terra quel grumo di pelo sporco, mi incalzava, presto, presto, apri lo sportello, dammi un asciugamano. Mentre guidavo, di tanto in tanto mi voltavo a guardare le sue braccia dorate spruzzate di lentiggini brune, i capelli grigi arruffati dal sale. Aveva avvolto il gatto nel telo da spiaggia, lo teneva in braccio e gli parlava. Io pensavo che sarebbe morto e Nora sarebbe stata triste per il resto della vacanza. Ma il gatto non è morto. Eravamo arrivati in tempo, il veterinario ce lo riconsegnò dopo avergli iniettato il siero e ci raccomandò di tenerlo al caldo. Contrabbandato dentro l'albergo della cesta da mare, il gatto aveva dormito in mezzo a noi, che ci svegliavamo continuamente per controllare che fosse ancora lì, stordito ma vivo. La mattina dopo lo trovavamo nascosto sotto il letto, le pupille dilatate dal terrore. Nora gli parlò a lungo, sdraiata sul tappeto, e poi lentamente lo tirò fuori e se lo strinse al petto. Avvolto nel suo abbraccio, dopo 10 minuti il gatto ronfava forte, spalmato su di lei come burro sul pane. Ci sono tra bestie ed umani queste alleanze improvvise e totali, e chi ero io per oppormi? Avremmo avuto un gatto, e si sarebbe chiamato Veleno, come un guerriero, aveva detto Nora, che prende il nome del nemico sconfitto e celebra così il suo trionfo sulla morte. Era un maschio novellino, di forse 6 mesi, denutrito, occhi enormi, un tigrato come ce ne sono tanti, grigio con una sfumatura fulva di sottobosco nel piumino interno della pelliccia, quello che tiene caldo d'estate d'inverno e che riempie le spazzole e svolazza per casa d'estate. Veleno, amico mio, siamo fratelli di lutto. Il nostro è un legame di sangue e di assenza, come la sutura che unisce i lembi di un moncone. E tutti sappiamo il pelo del gatto per caso. Certo, tutti lo sappiamo perché molte di noi hanno gatti, lei è la zia dei miei, delle mie anzi, e va bene. Allora, detto questo, quindi abbiamo quindi tratteggiato diversi personaggi. Adesso, siccome abbiamo parlato anche in relazione a Malvina, abbiamo parlato della badante, comunque della persona che stava con Malvina, è il momento di parlare di Ana. Allora, la capacità di cogliere gli aspetti, le tipologie, i diversi aspetti delle donne da parte di Margherita, per quello che mi riguarda, è veramente sorprendente. Ma non perché non sia capitato di fare delle considerazioni, quella mi sta antipatica, quella mi sta simpatica, quella è stupida, oppure quella è una subnormale, ha poca cultura, insomma, oppure pensa delle cose che sono tutte sballate, cioè, pensiamo tante cose, no, delle altre donne, no, oppure ma perché le donne si mettono quelle cose, eccetera, eccetera, eccetera. Però c'è modo e modo, e devo dire che nel disegnare la colonizzazione che il potere patriarcale riesce a fare sulle donne e nel delinearlo attraverso il tratteggiare la figura di Ana, beh, credo che Margherita sia riuscita a farlo molto bene. E Ana è proprio il manuale della femmina dell'uomo, quella che una donna senza un uomo che ci sta a fare, no? Ed è quello che ha descritto perfettamente Margherita. Margherita, ti sei ispirata a qualcuna? Vabbè, sì, certo che mi sono ispirata a qualcuna. A più di una? Sì, sì, beh, una in particolare, ma non voglio dire, io ho una donna con cui ho avuto questo rapporto sempre di lavoro, ma che mi ha indotto in una tale confusione mentale che manco dei rapporti d'amore appassionati mi potevano mandare a sbiellare così. Era una persona che io apprezzavo anche delle doti, no? Che accudiva anche mia mamma, e quindi per me era importante, che però aveva un atteggiamento verso la vita e verso se stessa che mi faceva andare di fuori, completamente di fuori. Mi è responsabile di turbe emotive e psichiche che lei non le immagina neppure. E io ho cercato un po' di riversarle lì, in questo personaggio. Descrivendolo? Sì, facendole fare alcune piccole cose, che un po' di quello che ho vissuto. Allora, vediamo intanto come descrive Ana e la somma praticamente del femminile di un certo tipo. Badante è una che bada a qualcuno, e Ana non sa badare nemmeno a se stessa. 35 anni, ne ha passate di tutte, confini traversati illegalmente, marce notturne nella foresta, aborti, incontri in internet con sconosciuti che avrebbero potuto farlo a pezzi, clandestinità ed emersione, e a cosa le è servito? A niente, scema come una rapa. Quel principe azzurro in testa, la famigliola italiana, fatemi entrare dalla porta di servizio, vi prego. Ana è donna da matrimoni combinati, e visto che non ha una famiglia che lo combini per lei, cerca di combinarselo da sola. Si fa merce a se stessa, si vende in cambio di un po' di normalità, essere come gli altri, non importa come sono gli altri. Ecco, quindi è abbastanza interessante. Allora, In tutto questo dipanarsi di storie di donne che entrano in relazione anche in... Però ti prego di ricordare che c'è un punto in cui la vecchia cambia, cioè vede, non è che cambia il suo giudizio, vede il rovescio, e cioè? E quando dice, però la trattava bene Malvina. È vero, perché Malvina diceva di Anna che era molto gentile. E si immagina lei quando gli fa la doccia, lo shampoo, e dice che era brava, ecco. Quindi, come dire, è questo che ti sconvolge emotivamente di più, perché non c'è solo un giudizio che la vecchia tira giù senza limitarsi, ma c'è anche quell'altro aspetto. Certo che nell'aspetto della cura... Comunque dobbiamo anche fare i conti col fatto che queste donne, queste persone sono nelle nostre case, effettivamente si prendono cura dei nostri cari, dei nostri familiari, sono... speri sempre che le persone che entrano a contatto con persone che ti sono care le maneggino, tra virgolette, con una cura, dovuta. Con cura. E in realtà dobbiamo fare i conti con questa cosa, perché sempre di più... le persone invecchiano e sempre di più il nostro modello di vita non ci consente di prendercene cura come succedeva un tempo, quando c'era la famiglia patriarcale e diciamo dei familiari, del padre, della madre, ci occupavamo direttamente noi, adesso lo facciamo fare ad altri. Io spesso, mia madre è stata male, ha avuto una badante che veniva dall'estero, con la quale poi tra l'altro va... anche stretto un'amicizia bella, lei la chiamava mamma e non in quel modo brutto che generalmente spesso hanno le persone che si occupano delle persone anziane o quelle che stanno male, tesoro, mammina, no, lo diceva insomma in un modo molto bello secondo me ed è stato difficile che lei ci è voluto del tempo prima che prendessero le misure l'una all'altra e poi insomma è sfociata questa amicizia che ancora dura anche adesso che mia madre non ne ha più bisogno. E io però ragionavo sul fatto che questa donna non è potuta andare al funerale di sua madre quando sua madre è morta, nonostante noi le avessimo detto vai, però lei era qui a badare a mia madre e non era lì a badare alla sua. Quindi è vero che alle volte ti fanno arrabbiare, anche Gabriella fa arrabbiare la vecchia per certi versi, però insomma c'è evidentemente qualcosa in questo rapporto con queste persone che... far vedere i lati positivi e anche quelli negativi, insomma non si può lanciare il giudizio netto, cioè, ci sono degli aspetti diversi. Scusate, mi sono introdotta. Hai fatto benissimo. Allora, in tutto questo direte voi, ma non c'è, tranne che il perfido Osvaldo, c'è anche un altro uomo che è l'amico Max, no? Ma sono pochissimi gli uomini, sì, e arriviamo a un uomo che vi descriveremo non tanto e non già perché ci interessa indagare l'animo maschile, ma perché è un po' una chiave di volta, diciamo così, una chiave di lettura del libro. Ed è Dorin. Dorin è il terrorista, quindi diciamo che... Margherita affronta anche quest'altro temone grosso. Non è così. Sostanzialmente la storia del terrorismo è qualcosa che entra proprio di sbieco ed è un pretesto. In realtà questo Dorin è semplicemente un minus abens, un cretino, come sono molti uomini, e che però terrorizza Gabriella e è in realtà uno stalker. È in realtà un uomo che ritiene di poter fare quello che vuole e che quindi su questo piano va giù duro. Perché hai scelto di parlare di terrorismo e comunque di tirar fuori questo personaggio? Vabbè, perché il terrorismo è una delle cose che ci spaventano adesso. Cioè, poi io quando scrivevo era anche quel periodo in cui un giorno... scoppiò una bomba in un aeroporto, dopo un giorno dopo in un'altra parte, cioè in una metropolitana. E forse adesso è un po' diradato, forse ci siamo abituati, non lo so. Quindi c'era questa paura, no? La mia vecchia è lì che ascolta come si fa quando si ha più tempo, si ha più attenzione al mondo esterno e si è anche forse più indifesi, no? Rispetto a certe cose, a certe notizie, a quello che ti viene detto, perché non hai i pensieri, tutto il lavoro da contrapporre, eccetera. E quindi infatti comincia così il libro, comincia con una telefonata in cui Malvina dice: ah, sai, la tale è morta in un attentato terroristico. Poi non è proprio così, ma quindi c'è questo tema. E allora ho pensato, no, perché poi leggevo questi articoli in cui si parlava di questi giovanotti sbandati che avevano come ideale il terrorista, cioè non più il cantante o il calciatore, ma il terrorista, cioè un ideale di riuscita maschile, virile. E allora ho preso uno così, no? Cioè uno che senza contatti con niente, con nessuno, dice, ma io, si pone così. E Gabriela ci crede abbastanza, no? Anche perché in effetti lei viene terrorizzata da lui. Certo. Cioè lui la insegue, la tormenta, le si fa vivo, poi scompare, poi torna di nuovo. Perché le fa la corte terrorizzandola, ecco, quindi questa era l'idea di questo. Poi comunque lui sarebbe veramente disposto a fare delle cose negative, come si vede poi, ma non lo raccontiamo nel finale. E quindi questo, insomma, semplicemente è un fantasma, il terrorista. Io l'ho vissuto, l'ho raccontato come potevo viverlo io, come possiamo viverlo noi che stiamo a leggere i giornali, a sentire la radio, a guardare, come un fantasma di questo maschile tralignato che... infatti Gabriela continua a dire, ma perché uccidono? Ma poi muoiono anche loro, ma perché? No, c'è questo perché di Gabriela a cui la vecchia a un certo punto, cioè, o non risponde o dà delle risposte. Abbastanza puntute, no? Abbastanza puntute, sì. Avevo letto questo libro recentemente, questo libro vecchio di Robin Morgan, molto bello, che si chiama Demon Lover, che voi conoscerete senz'altro, l'avete letto prima di me. Io l'ho letto solo recentemente, che parlava e mi colpiva proprio il rapporto fra il terrorismo, l'idea del terrorismo e l'assoggettamento del, il nesso eros e terrore, ecco. Quindi l'assoggettamento delle donne. Delle donne. È nella fattispecie. E infatti questo è un cretino, questo non realizza niente, però terrorizza lei. E Margherita fa dire a Gabriela delle cose estremamente interessanti, quindi fa pensare veramente a come possano vivere le donne che vengono stalkerizzate. Gabriela ha una sorellastra, diciamo, che si chiama Petra, e fa parte appunto di quella bruttissima famiglia di cui la ragazza è sfortunatamente dotata. E, probabilmente Dorin sa, viene a sapere, insomma, le cose che riguardano Gabriela attraverso Petra, o forse attraverso le figlie di Petra. Insomma, lui le manda cose terribili sul telefonino, video di scannamenti, decapitazioni, eccetera, eccetera, la terrorizza. Ed ecco qua, il telefono le serve, ecco perché è costretta a prenderlo in mano, anche se adesso le sembra di maneggiare una di quelle bombe piene di chiodi e bulloni. Non basta eliminare la chat, bisogna bloccarla, domani cambia la scheda, di nuovo. Ha acceso tutte le luci di casa, si fa in fretta perché sono soltanto due stanze, ha controllato la serratura, ha tirato il piastrello, chiuso le persiane con il fermo. Ha guardato ovunque, sotto il letto e negli armadi, solerte e giudiziosa come sempre, ha riposto in frigo il piatto mangiato a metà. Si è fatta una camomilla, ha lavato i pavimenti, strigliato con forza le piastrelle del bagno, pensando alle rose d'autunno, alle bacche rosse che la prima neve fa maturare, voltandosi ogni pochi secondi per guardarsi dietro le spalle, decifrare rumori immaginari. Adesso guarda video di gatti su YouTube, gatti che fanno salti acrobatici, dormono in posizioni buffe, sfracellano vasellame, balzano in testa ai loro proprietari, si leccano le zampine o si fanno il bidet. Li conosce tutti a memoria, sono una delle sue medicine abituali. Vorrebbe immergere le dita nel loro pelo, guardarli per ore, messaggeri di un altro mondo, più bello, non umano. Se esaurirà i gatti prima di addormentarsi, passerà ai cani, cominciando dal suo video preferito, quello della cucciolata di Bassotti. Se per caso tra un gatto e l'altro, la cosa sulla coperta verde e le balene in mente, si aggrappa ai rami del rosario. È diventata molto brava in questo genere di operazioni. Per qualche istante riesce a sentire l'odore della terra umida d'autunno sotto la prima neve, ma il sonno non viene. In effetti ha paura anche di addormentarsi. Che ne sarà di lei mentre giace in difesa, distesa sul letto, offerta alla notte? Il sonno lo sapevano i primitivi e lo sanno quelli che sono in pericolo, i perseguitati. È il momento di massima debolezza, quello in cui gli assassini impugnano i coltelli. Ombre sbusciano nel buio per appiccare il fuoco alla casa. Le guardie armate vengono ad arrestarti. Domani è il suo giorno libero, pensa con angoscia. Non potrà rifugiarsi nel grande appartamento tranquillo e lavorare nel mormorio ininterrotto della radio, pacificante come un rumore d'acqua che scorre. Si tira su a sedere sul letto, raccoglie il coperto attorno a sé, gli occhi sgranati nella penombra della lampada da notte. Odia con tutte le sue forze il nemico che le impedisce di sentirsi sicura a casa sua. Ma odiare non serve, bisogna concentrarsi, pensare, agire, scappare, o le scoppierà il cuore. È quasi luna quando si alza, si veste, si prepara la borsa come per un viaggio, un cambio di abiti, una coperta, formaggio, biscotti, una mela. Prima di uscire di casa si ferma davanti alla porta, chiude gli occhi, stringe le labbra, immagina di essere invisibile, senza peso, già morta. Se è già morta nessuno potrà farle del male. Sa che fuori le strade sono deserte, le finestre buie, si sente solo il rumore del fiume e il suo odore freddo e marcio. Tutto più un fruscio sotto le foglie secche, un topo che attraversa lentamente, fermandosi a guardarla, come l'ultima volta. Se ha fortuna, non incontrerà nessun altro. Il coraggio nasce dalla paura. La signora le ha raccontato che quando c'era la guerra, sua madre non voleva andare nel rifugio giù in cantina. Usciva fuori, in strada. Aveva tanta paura di morire che preferiva andare incontro alla morte, guardarla in faccia, all'aria aperta. Esce, rinchiudendosi la porta alle spalle, senza fare rumore. Ecco, abbiamo scelto questo pezzo, il più lungo di tutti, mentre quando abbiamo tratteggiato le personagge abbiamo scelto pezzi anche brevi che però caratterizzassero di più. Parlare del terrore, della paura che le donne hanno e del terrore in cui vivono, credo che invece avesse bisogno di questo pezzo più lungo e questo modo estremamente significativo in cui è riuscita a raccontarlo Margherita, molto, molto bello, molto toccante e credo molto realistico, no? Quindi hai avuto esperienza in questo senso? Qualcuna ti ha raccontato storie di questo genere o hai solo immaginato, Margherita? No, non mi hanno raccontato nessuna storia di questo genere, cioè in parte sì, so di cose di... Io penso che il terrore, la paura sia una roba che tutti conosciamo, basta che ci concentriamo un pochettino, no? No, comunque, per esempio, la persona che in particolare mi è servita di modello per Gabriella è una persona che non mi avrebbe mai probabilmente raccontato una storia così se anche l'avesse vissuta, ma forse io potevo immaginarne parti nella sua testa. Ma, no, il terrore era, cioè il terrore ti porta a quello che è il tema, quello che diceva un po' della morte, no? Certo. Perché di cosa abbiamo terrore? Sostanzialmente di quello. E quindi mi riportava, insomma, questa meditazione che io ho fatto. E poi Gabriella è una creatura spaventata fin dall'inizio, ecco, quindi per quello è una creatura spaventata che noi non sappiamo esattamente, cioè lo sappiamo perché basta, queste cose qua bastano a spaventare, ecco. Una persona in pericolo, io penso che ci siano molte persone in pericolo, cioè, lo vediamo poi quotidianamente, no? Ci sono persone che sono in pericolo di vita, la stessa sensazione di libertà, cioè di sicurezza che noi proviamo così abitualmente si lacera così facilmente. Sì, è vero, vero è che per le donne questa cosa è più accade, sì. Più spesso, insomma, sì. No? Che le donne abbiano paura, ed è vero che per esempio se io cammino nella notte non necessariamente le due di notte, però mi è capitato di tornare tardi dalle riunioni, vado in motorino, vado a rimettere il motorino nel box e comunque ho un senso di paura. Se vedo delle figure in lontananza cerco di capire se sono solo uomini oppure se sono uomini e donne, e allora se ci sono delle donne io mi tranquillizzo, quindi è questo, pur non avendo... È strano, pure non mi conosce bene le donne, io non mi tranquillizzerei affatto. Pur non avendo mai avuto esperienza diretta di violenza brutale, però ecco, sapere che ci sono delle donne mi fa tranquillizzare. Detto questo, non so se Margherita vuoi aggiungere delle cose, oppure Rosina vuoi aggiungere delle cose. Io, se volete parlare voi delle impressioni, o che se qualcuno ha già letto il libro, o volete parlare delle impressioni che abbiamo suscitato con questa chiave di lettura, ma di chiave di lettura ce ne sono molte altre, perché appunto le riflessioni che Margherita fa in questo libro sono tante di più, però insomma ecco, mi piacerebbe. Volevo chiedere una cosa a Margherita, perché Malvina appena entra nella casa di riposo, diciamo, si adegua subito? Praticamente dopo 2 giorni che la fa trovare... Non è, cioè, non c'è un perché, è quello che è successo a mia madre, non, cioè, io non ho delle spiegazioni, non lo so, mi è venuto a raccontare questo perché questo corrisponde a una... No, perché non è che la va per portarsela via, ma lei è più attratta dal tè che stanno servendo, no? Invece di... Sì, è quello esattamente, cioè, Malvina, lo so, quello è che... di cui io sono stata testimone, è una perdita di memoria abbastanza veloce, è una forma di adattamento alla situazione, quello che è, per cui se tu sei in una situazione, cioè ti porta in un altro posto, tu dici vabbè ci vado. Sì, è positivo, certo che è positivo, forse addirittura un meccanismo di salvaguardia, perché altrimenti uno morirebbe, cioè si strazierebbe di dolore, invece non sapendo dov'è, lei... Ma non penso che ci siano però dei, non lo so, dei parametri, no? Magari a qualcuno succede così, a qualcuno succede una cosa completamente diversa. Però io quello che ho visto in questo luogo che purtroppo ho frequentato per 10 mesi è che le persone erano molto adattate, cioè molto adattate perché stavano lì come avrebbero potuto stare in un altro posto. Come dico, a un certo punto lei sta in un posto bello, c'è la finestra che guarda la collina in fiore, ma lei non la guarda, cioè non vede più quello che sta attorno a lei. E quindi purtroppo corrisponde a un'esperienza limitata, ecco. Caterina, sì, volevo, allora io ho chiesto prima di cominciare questo incontro a Margherita il permesso di poter essere estremamente sincera dopo la lettura di questo libro, lei me l'ha dato, quindi adesso si prende quello che dirò. Allora io devo confessare che questo libro mi ha dato molti problemi mentre lo leggevo. Talmente tanti che arrivato a metà l'ho chiuso e ho detto basta, non ce la faccio, è troppo duro per me, è troppo triste, perché affronta il problema della vecchiaia, vuoi perché noi viviamo in un tempo dove tu non puoi essere vecchia, no? Perché c'è sta la crematrietà, ci stanno quelli che fanno il business a 60 anni, la vecchia che balla a Sanremo, quindi ti danno un'immagine della vecchiaia che è assolutamente diversa da quella che potrebbe essere la tua realtà. E quindi io ho chiuso il libro, l'ho messo sul comodino ed è rimasto lì per una settimana abbondante. Convinta, mentre lo usavo sul comodino, che non l'avrei mai riaperto. Il problema qual è stato? È che con il passare dei giorni questo libro mi continuava a ronzare in testa, perché toccava alcuni temi nei quali io mi sono identificata, non certo, non sono una ragazzina, ma non certo per la mia vecchiaia, no? Per una serie di difficoltà che la protagonista incontrava e che anch'io per motivazioni diverse ho incontrato, quindi questa cosa mi faceva stare molto male e non ce la facevo. Poi ho pensato che se un libro, qualcosa che narra storie di altre, ti fa pensare e ti fa riflettere così tanto, in realtà qualcosa te la sta dando, sei tu che non la capisci, no? Per cui io ho riaperto il libro e me lo sono bevuto tutto d'un fiato fino alla fine. E la cosa che mi ha colpito è che noi siamo abituati ad avere, rispetto alla vecchiaia, dei cliché, no? A parte che non può essere vecchia, però se proprio devi, hai un ruolo, una fisionomia e un contorno accanto a te che è tipico, è solo quello. In questo libro invece si faceva vedere tutt'altro, no? Prima si è parlata di questa, di queste amicizie che ognuna di noi come lesbica ha, no? La famiglia allargata, la famiglia che tutti crei che non è quella di origine. Però in questa società tu, se sei vecchia, devi fare affidamento sui tuoi figli o sui nipoti, e le lesbiche al 90% non hanno né figli, hanno qualche sorella che magari non vedono da anni, per cui tu ti trovi in una situazione che è completamente diversa. E questi cliché comunque ti portano a, cioè in questo libro si vede che la vita di questa lesbica grandiosa, secondo me la vecchia è una donna stupenda, si trova a perdere via via, pezzo pezzo, tutta la sua vita, i suoi ricordi, perché lei esisteva anche in relazione a chi le voleva bene e si ricordava di lei, perché lei era una parte della loro memoria, così come loro erano parte della sua vita, no? Allora, a tutte noi farebbe molto piacere andare fino all'ultimo giorno, come dicevi tu prima, con la compagna che sta insieme da una vita, o anche che sta insieme da un anno, non fa niente. Purtroppo la realtà della vita può non essere così, per cui questo libro tocca delle argomentazioni molto, molto dure, no? E ti fa vedere quella che potrebbe essere la tua realtà futura. Mentre io andavo avanti in queste mie recuperazioni mentali di tristezza, no? C'era una frase del libro che a me continuava a ronzarmi in testa, ed è una frase che sta quasi all'inizio del libro, no? E continuava a ronzarmi in testa, io non capivo perché, poi me la sono andata a ricercare, non mi ricordavo neanche in che pagina stava, e leggendo quella frase io ho dato a questo libro una... era come se fosse la chiave di lettura di tutto il libro, no? Allora, questa frase fa riferimento a un libro reale, no? Un libro che si legge e si mette sul comodino. E io ho avuto questa immagine invece di sostituire la parola libro con la parola vita, la nostra vita. Allora io me la leggo e vi chiedo semplicemente di fare attenzione a, mentre io la leggo, di sostituire la parola libro pensando alla vostra vita, ok? E poi c'è un'altra frase, l'ultima, che invece io ho riferito alla vecchiaia, alla nostra vecchiaia. Allora, la leggo, scusa se sono di rema la voce. Allora, quando si termina un libro che ci ha fatto compagnia per tante notti e con un sospiro lo si mette sul comodino, con qualche orecchia alle pagine, qualche macchia di caffè e magari la copertina strappata, si prova una piccola tristezza, un senso di vuoto. Si prende congedo da una vita, da un mondo che ci hanno tenuti avvinti per un po' in una felice avventura. È solo in quel momento però, quando si arriva all'ultimo capitolo e si legge più lentamente, due o anche tre volte su una frase per ritardare l'istante in cui si dovrà chiudere definitivamente il volume, è solo allora che comincia il processo in cui quella vita, quel mondo, entrano veramente dentro di noi e cominciano il loro lavoro profondo. La fine, le fini sono più reali degli inizi. Forse per questo se ne parla così poco. Si parla pochissimo di vecchiaia e invece c'è una parte di noi. Grazie. Grazie. Vieni. Renata, quella che ha parlato prima era Caterina. La milanese. La milanese. No, io volevo ringraziare tutte voi e poi volevo ringraziare Margherita perché in questo libro c'è tutto. Però la protagonista per me, e ho avuto lo stesso tuo problema. Fino a metà mi sono fermata perché per me, perché ho perso come te. Il papà qualche mese fa e quindi tutte le descrizioni eccetera mi toccavano proprio in prima persona, no? Le riflessioni sulla morte eccetera, per cui a un certo punto ho detto ma come cazzo, Margherita mi ha sempre fatto succhiare le sue parole, ho sempre anche riso eccetera, la prima parte l'ho trovata un po' faticosa, no? E poi anch'io mi sono detta no, ci sarà qualcos'altro dopo, ci sarà una cosa, infatti poi dopo avevo lasciato anch'io sul comodino, l'ho ripreso e le parole sono volate. Però era per me stata la protagonista, oltre a tutte le donne, e vabbè, c'è anche la figura di Ciro, che è anche una bella figura, è la morte. Il camminare verso la morte, ma non con quella tristezza terribile, eccetera, con quell'ironia che è tipica anche di Margherita. E il libro accompagna proprio la morte, no? In tutte le sue riflessioni, eccetera. E da un certo punto in poi mi ha aiutato, no? Ad affrontare quello che per me è stato pesante, la morte di mio padre, e poi anche rivedermi anche in questa casa di cura, no? Dove la maggior parte di noi ha dei genitori in queste situazioni, e quest'umanità proprio come un'umanità spiaggiata che tu trovi dentro questi posti, che trovi anche da sorridere, no? in queste persone che magari urlano, magari ridono, magari stanno zitte, magari guardano il muro, eccetera. E mi sono domandata, c'è anche la possibilità che possa accadere a me, no? Questa roba qua, e come potrei reagire in una roba del genere, nel momento in cui potrei reagire. Tra l'altro la vecchia è sempre ben presente, focalizzata su se stessa, è un personaggio bellissimo, forte, no? Ognuno di noi vorrebbe essere così. E poi c'è il discorso lesbico, c'è un piccolo passaggio dove tu a un certo punto parli, appunto, metti nelle parole della vecchia, la preoccupazione se Malvina viene scoperta come lesbica, no? Che cosa le potrebbe accadere? Le darebbero una maglietta più brutta, le darebbero da mangiare un cibo molto più schifoso. E questo tipo di riflessione rispetto a noi lesbiche nell'invecchiamento, no? Io ho sempre pensato a un lesbizio, no? Come grande paradiso. Perché comunque magari in una casa di cura, magari messa da Lucida, però lesbica, però magari non hai la possibilità di mangiare, ti devi far accudire, se tu ti dichiari diventa molto più difficoltoso, no? Per tutte noi. Perché stavo pensando anche a questa carineria che hai messo e questa riflessione. Poi c'è tutto. C'è la discriminazione delle donne, c'è la violenza alle donne che parli all'inizio, c'è l'eutanasia, c'è tutta la morte, cioè c'è tutto, tutte le sfaccettature di una vita vissuta con consapevolezza, e c'è anche la riflessione che lei medita come un buddista per cercare di liberarsi, eccetera, eccetera, c'è tutto. E io ti ringrazio perché veramente, anche se ho fatto molta fatica all'inizio, comunque il linguaggio è splendido, come sempre il linguaggio è splendido. Grazie. Ragazzi, mi spiace, io lo sapevo. Qualcun'altra voglia di dire altro? Comunque ve lo consigliamo, noi che l'abbiamo letto, sì. Ve lo consigliamo perché è un libro che apre a tante riflessioni, e comunque è un libro che ha una profonda ironia. Ma il reale non è, cioè, il reale è tosto, diciamo che... è tangibile, lo tocchi, capito? Ti rendi conto di che potrebbe succedere a te, come potrebbe succedere, però è quello. Però appunto la mia vecchia è anche una che tanto appunto con il suo cinismo, le sue cose, con il suo humor, forse, no? Affronta anche un po', e poi rispetto alla morte lei combatte, lei non cede, no? Cioè lei non è una guerriera. Mi è venuta fuori così. D'altra parte, come poteva essere? Non potevo scrivere un libro nichilista, cioè è una che vuole vivere fino all'ultimo, e ce la fa, come diciamo al finale, ma ce la fa perfettamente. Ci ho messo anche, lo dico perché mi sembra il luogo più giusto per dirlo, c'è un omaggio che ho messo a, non so se voi me ne siete, l'avete riconosciuta, la signora con lo smoking e l'orchidea, che perché è una cosa, è un omaggio a questa donna che ha voluto lasciare, che era una femminista, una lesbica, una studiosa, che è Michelle Coase. Io ho voluto far incontrare la mia protagonista a questo video, come è capitato a me, perché un giorno, cercando Michelle Cosse per un lavoro, non so, per un suo qualcosa che lei aveva scritto, non ricordo più, su qualche personale, qualcuno di cui si è occupata, mi sono imbattuta in questo video che lei ha fatto per conto, credo, su richiesta di questa associazione svizzera con cui ha fatto il suicidio assistito. Perché mi ricordava qualcosa questo video. No, io l'ho visto il video, è Exit. Sì, adesso non mi ricordo il nome. Comunque, questo video mi ha ovviamente molto turbato, anche perché ci sono capitata per caso, cioè non sapendo, non capendo. E l'ho visto molte volte. E credo di avere, alla fine ho capito almeno una degli elementi, uno degli elementi per cui mi ha interessato molto, è che lei ha voluto morire perfettamente viva e in maniera come una sfiga, una bravata, mi sembrava, era come un'attrice, una donna che stava per andare al ballo, perché tu dici, ma perché questo? E tutti i moralismi, perché vuole morire una che apparentemente non sta bene, non sta male, no? Perché vuole morire? Ma tutti ti cadono, no? E vedi, no? È stato un po' come quando ho tradotto Stone Butch Blues, cioè quando la prima volta... Perché ti chiedi perché una persona affronta una tale dose di dolore, di sfiga, di fatica esistenziale immane, solo per vestirsi da uomo, e ti rendi conto che quella è una necessità profonda che... E quasi, cioè, era raccontato, nel modo in cui era raccontato in quel libro, mi ha fatto veramente capire che era veramente sfidare la vita e rispondere a un bisogno profondo, ma in modo, diciamo, cavalleresco, in modo, una figura, in modo un po' eroico, un po', ecco. E poi tu puoi anche non condividerla, questa cosa, cioè io non posso, cioè, ma non è il problema, nessuno deve condividere niente, non si tratta di approvare, dare un giudizio morale, non è quello. No, lo dicevo perché mi ha alla fine questo video in cui lei muore, è scioccante vedere una persona che muore. Che a un certo punto lei ne vorrebbe un altro e quella gli dice no, e poi chiede veramente, ma quanto tempo passa? Un minuto, due, ma come? Così poco? E poi si addormenta. Io l'ho trovato, beh, insomma, mi è piaciuto, io ho ammirato il suo coraggio, ecco, questa è una storia di coraggio. Dopodiché io non voglio più dare un giudizio morale, non mi interessa, sono cattolica che uno deve, la vita la deve togliere solo il Signore, non lo penso. E quindi mi piaceva questa cosa, la mia vecchia ha trovato ispirazione, anche se non è sicura, non è affatto sicura che quello lì possa essere una cosa che va bene per lei. E comunque, no, perché adesso la morte viene usata, Io ho visto recentemente un balletto lì, adesso guardate, no? Mi sono talmente incazzata, non mi ricordo se era Platea, poteva essere, dove ai ballerini che si muovevano sulla scena dietro avevano costantemente per tutto il tempo come sfondo un video in cui c'è una donna che muore. Già mi sono un po' incazzata perché i ballerini erano in massima parte uomini, tutti meno, e dietro c'era una donna che moriva, non mi è piaciuto. E prima mi chiedevo mai, ed era una finzione, c'è uno spettacolo che lui porta in giro, no? E va avanti per un'ora in più, e poi ti rendi conto che è vero, perché se fosse, cioè è vero, poi lo diceva anche il programma, c'è il video, quindi ormai la morte viene spettacolarizzata anche come fatto artistico, non solo perché è spettacolarizzata sempre, noi vediamo sempre gente che muore, muoiono sulle barche, muoiono in mare, muoiono in guerra, gli tagliano la testa, cioè, noi non è attentato. Cioè, ci metti pure lo spettacolo. Ecco, ma viene, la morte è onnipresente, è una cosa terribile il fatto che non abbia più un senso, no? Neanche, no? Questa presenza. E poi viene usata anche in un balletto. Io mi ha dato veramente fastidio questa cosa, come non mi ha dato fastidio Michelle Cosse, ecco. Anzi, mi è sembrata, come dire, galante e coraggiosa. e come tale ho voluto inserirla in questo libro, perché in questo mio, questa mia meditazione sulla morte, che è durata un bel po' e non è che poi finisca, ma comunque insomma adesso mi sono presa una pausa, e lei è stata uno dei momenti. Poi la facevo vedere alle mie amiche che dicevano: ah, tu, ma perché la vuoi rivedere? Ma non è, in realtà non fa vabbè, poi io l'ho incrociata recentemente, mi sto occupando delle stessi personaggi di cui si è occupata lei. Lei ha scritto un bellissimo libro su Sonata di Barney, per esempio, e ha scritto anche su Solanas, e quindi no, niente, scusate, ho fatto questo inciso. Ok, grazie. Bene, altre cose se ci sono, e se non ci sono altre cose noi vi salutiamo. E vorrei dire un'ultimissima cosa. C'è The Voice che vuol dire un'ultimissima cosa, ma proprio un'ultimissima, così a chiusura. Margherita, la vecchia secondo me potrebbe essere un personaggio di Taffo, quello delle con le sue battute micidiali, così se tu hai mai visto la pubblicità di Taffo. Taffo è un'agenzia funghi, non so se è soltanto romano. Fanno delle cose meravigliose, dovreste andare a vedere. Secondo me la vecchia potrebbe essere uno sponsor fantastico. Sì, lo trovo. Io dico sempre: non vedo l'ora di morire per fare un funerale da Taffo, e ho detto tutto. Allora, con questa perla di saggezza di Rosina ci salutiamo, e grazie per essere intervenute, grazie soprattutto a Margherita che ogni anno ne sforna uno e noi lo leggiamo volentieri. Prometto che smetto. No, Margherita, non smette, è per la miseria. Grazie. L'hanno visto, giù c'è... C'è la libreria Tuba che ha ancora i libri, e chi li vuole acquistare sono là. Nel frattempo che c'avevo la scarica.